Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Salve a tutti, sono Gabriele, bentornati su Radio Big World e sull'Arcadia. Oggi volevo spiegare le differenze tra il nuovo ordine mondiale, New World Order, e l'ordine mondiale, One World Order, perché, come ho detto, c'è molto di più dietro rispetto a quello che pensiamo o immaginiamo, quindi dobbiamo scavare. Volevo un po' illustrare le differenze, quindi per almeno io per anni, questi 3-4 anni, questo New World Order, questo nuovo ordine mondiale, ero convinto che fosse una cosa che venisse in futuro, che arrivasse molto più in là. Invece mi sono reso conto che non è così, che ci siamo già da tanto in questo nuovo ordine mondiale che controlla il mondo. È da tanto che è già in atto questa cosa. E come me, molte persone tuttora la pensano in questa maniera, cioè che è una cosa in programma, questa del nuovo ordine mondiale. Il fatto è che noi viviamo in questo nuovo ordine mondiale da centinaia di anni. Questa cosa si può vedere benissimo nel 1782, nel simbolo adottato ufficialmente dagli Stati Uniti, nell'emblema. Dietro questo simbolo c'è scritto Novus Ordo Seclorum, che significa nuovo ordine delle ere. Quindi si presume, almeno io presumo, che è da quel momento che, diciamo, siamo nel nuovo ordine mondiale, sotto il nuovo ordine mondiale. Poi arriviamo al 1913, dove la riserva federale, la Federal Reserve, e nella moneta, nel dollaro, c'è la piramide non finita con l'occhio che vede tutto. È diventata un'immagine pubblica, al pubblico, ve l'hanno messa l'hanno messa in bella vista a tutti. Se guardate il dollaro, a sinistra c'è la piramide incompiuta con l'occhio che vede tutto, e a destra c'è l'aquila che tiene 13 frecce, ma un ramoscello d'olivo con 13 foglie. E queste immagini sono state, le abbiamo avute davanti per costantemente davanti agli occhi, quindi è diventata normalità, è diventata consuetudine. E quando qualcuno ci dice che c'è qualcosa che non va, lo screditiamo. Perché? Perché siamo, per noi è diventata normale, è diventata routine di tutti i giorni avere questi simboli davanti agli occhi, l'accettiamo. E comunque dal 1913 a ora il dollaro è calato mostruosamente, il valore del dollaro è andato giù con estrema precisione, e se andate a cercare e vedete dove è arrivato dal 1913 a oggi, è quasi incredibile. E ora dove siamo? Siamo sull'orlo di collasso. Tutti i paesi sono sull'orlo del collasso, solo pochi stanno veramente bene. E comunque anche i paesi che stanno bene, la gente che sta nei paesi, non tutti stanno bene, o almeno vi fanno vedere che quelli stanno bene, voi state male. E è tutto stato già deciso, è tutto programmato. Quando ritiro fuori le torri gemelle, perché dopo le ospirazioni e tutto il resto si è visto che era programmato l'abbattimento delle torri gemelle. Dico abbattimento perché è stata una demolizione programmata quella delle torri gemelle. A parte il fatto che praticamente tutti evito perché poi si va su le razze, altre cose, e è complicato, la gente ha la testa talmente chiusa che non si rende conto di quello che c'è davvero dietro, che siamo davvero dei pupazzi in mano a queste persone, a questi psicopatici, a questi schiavisti, perché è quello che sono. Noi pensiamo ad essere liberi, ma la prigione in cui siamo non ha sbarre, non ha mura, ma è una prigione. È una prigione per la nostra mente, è una prigione per la nostra testa. Noi non siamo liberi. Non siamo liberi. E soprattutto non abbiamo il potere. Non oggi. Insomma, guardate. La gente non vuole delle cose e i politici fanno quelle cose che la gente non vuole. I politici, io intendo in generale, dai sindaco della vostra città a chi comanda il governo, o almeno a chi comandava il governo 12 anni fa, 13 anni fa, è dove stiamo andando. Non siamo più padroni di noi stessi, non siamo più liberi di decidere, noi non decidiamo più, c'è questa cosa che è la finta libertà di scelta, perché è una finta libertà di scelta. Comunque, tornando ai dollaro, questo è il motivo per cui è stata creata la Federal Reserve, perché era tutto programmato. Hanno creato un sistema monetario che cala di valore, perde valore con il tempo. In cambio hanno una società che perde valore, che declina con il tempo, come la moneta, uguale. Come declina la moneta, declina anche la società. E con questa cosa si abbassa anche gli standard delle persone, quello che una persona si aspetta nella propria vita, ti si abbassa i sogni, i desideri che tu vorresti avere. E a cosa pensi? Pensi a sopravvivere e accetti quello che ti viene dato. Accetti quello che ti capita, quello che è già stato deciso per te. Quindi, come ha perso potere la moneta, ha perso potere anche la persona, l'individuo ha perso potere. La società è stata, siamo stati completamente lobotomizzati, ci hanno fatto il lavaggio di cervello, ci hanno fatto diventare sempre più stupidi. E questo si può vedere benissimo da come la gente combatte e difende proprio le stesse persone che le legano, che le trattano male, che se ne approfittano. Siamo diventati così stupidi che non riusciamo a risolvere i nostri stessi problemi, non riusciamo a trovare soluzioni alle cose di tutti i giorni, no? ci mettiamo in ginocchio e preghiamo per qualcuno che trovi una soluzione, che migliori le nostre condizioni, che faccia qualcosa. Ma a chi la diamo questa fiducia? A chi li riponiamo? Su chi riponiamo i nostri sogni, i nostri desideri di un miglioramento, di un futuro migliore anche per i nostri figli? A chi diamo questa fiducia? Alle stesse persone che continuiamo a difendere e che non fanno niente, che continuano a approfittarsi di noi, e tutto quello che fanno peggiora solo le cose. E noi li difendiamo e noi speriamo che qualcuno di loro faccia qualcosa, invece che unirci tutti insieme e fare davvero qualcosa per cambiare le cose. Siamo così perché nessuno ci ha insegnato in maniera diversa, non c'è stato mai fatto vedere qualcosa di diverso. Se ci è stato fatto vedere qualcosa di diverso è per qualcuno che ci conosce o per magari un professore brillante che ha cercato di farci vedere la verità in qualche modo, senza dircela direttamente perché avrebbe rischiato il posto di lavoro, avrebbe rischiato la faccia, però in qualche maniera ha provato a farci vedere le cose. E se non fosse stato per queste persone, io probabilmente non ero qui a dire queste cose, a cercare di cambiare le cose. Come si fa a cambiare le cose? Benissimo, si può fare tutti i giorni possiamo cambiare le cose. Non c'è mai bisogno di uno esce con il mitra e dice ah, ora boh, cambia le cose. No, e non è così che funziona. Se vogliamo cambiare le cose, intanto uno smettila di darci contro l'un l'altri, è la prima cosa da fare. 2, levare di torno chi ci prende in giro, e intendo quelli che fanno finta di governare e di aiutarci. 3, anzi forse la 1, iniziare a ragionare con la nostra testa. Questa è la prima cosa che bisogna fare. La seconda è guardare, cercare e scavare. È faticoso, è doloroso, che la verità è orribile, la verità ci spaventa, ma non bisogna aver paura, perché la paura è quella che ci fa inginocchiare, la paura è quella che ci fa comandare, la paura è quella che ci rende burattini nelle mani di queste persone. Quindi basta avere paura, non dovete aver paura, non vi dovete vergognare, perché è quello che ci ferma. Siamo stati programmati per avere paura, per non scavare, per fermarci alla prima cosa e deridere chi dice la verità. Tornando al dollaro, mentre il dollaro iniziava a crollare, hanno continuato a fingere il terrorismo con le Torri Gemelle e tanti altri attacchi terroristici finti o organizzati o messi in scena, perché uno dice vedo quello vestito da poliziotto con il fucile in mano, sento gli scoppi, è tutto vero, vedo uno per terra con una pozza rossa, è tutto vero. Poi però tu vai a cercare la persona che è morta o non esiste, il politico quello che doveva essere stato assassinato, si vede benissimo che è una baggianata, che è finzione. Le telenovelas italiane sono fatte meglio, quindi uno dice no, sembra più vero nella finzione italiana, e è un complimento questo, ragazzi, perché le telenovelas italiane sono ridicole, e cioè gli attori vengono pagati anche uno strafottio, quindi rendetevi conto. Se andate a cercare, c'era un rischio a parlare di queste cose, perché il governo, lo Stato, non vuole che si parli di queste cose, almeno su internet o su altre diciamo fonti di informazione, diciamo queste cose non vengono dette. Perché non vengono dette? Perché vengono censurate. Se qualcuno menziona queste cose viene censurato, gli viene chiuso il canale, o gli viene... per quale motivo? Non c'è libertà di parola? Non c'è libertà di espressione, di opinione? Uno non può dire uno come la pensa, le sue idee, i suoi pareri su quello che succede, gli succede intorno? Non può condividere i suoi pensieri? No? E questo è controllo. È controllo. Quando vengono manipolate le informazioni o vengono tolte delle informazioni, è controllo. E a cosa crede la gente? A quello che viene detto in televisione. Cosa viene detto in televisione? Ah, i terroristi hanno fatto questo, gli islamici hanno fatto questo, l'ISIS ha fatto questo. E noi lo prendiamo per buono, lo prendiamo per verità. E quando qualcuno ci dice il contrario, idiota, l'hanno detto in televisione. Certo, l'hanno detto in televisione. Siamo messi male. E mi rendo conto, giorno dopo giorno, che siamo in pochissimi. siamo veramente in pochi a vedere queste cose. È incredibile. È incredibile come la gente preferisce sfottere una persona, prenderlo in giro e continuare con la vita da mucca che c'ha. Va alla stalla, bruca l'erba e poi arrivano a piglia il latte. Bravo, e tu mi pigli anche per il culo? Come si fa? Dicevo dell'attacco terroristico di Politeo, ora non mi ricordo dove, Turco forse, che si vede, cioè, l'attentatore, quello che uccide, diciamo, quello che parla. Sono in uno studio, intanto, l'attentatore viene, mi sembra, viene ucciso, in una foto non ha la barba, e in un'altra foto ha la barba, quindi mi viene da pensare, perché in una foto non ha la barba, è perfettamente rasato, culo bambino, e in quell'altra invece sembra la carta vetrata che usano per scartavetrare ponti? C'è qualcosa che non torna, no? Se le foto sono state fatte, il video, perché c'era giornalisti lì, poi cambia la pistola. Mi ricordo ora, purtroppo questi video non ci sono più, o è difficilissimo trovarli perché sono stati tolti, come ho detto, perché c'è la censura, che ci credate o no, c'è la censura, non si può dire quello che si vuole. Io non so quanto potrò durare di queste cose, però ci provo. Non ho paura, non è la paura, non è certo la paura, è proprio perché non ho paura che sono qui. Poi, continuando con il discorso, poi è arrivata, e poi arrivano le Nazioni Unite con il piano di salvarci, dicendoci che per tornare sulla retta via, sulla strada giusta, e rimettere ordine in questo caos, ci dicono che tutte le nazioni di tutto il mondo si devono unire sotto un'autorità e una legge comune per tutti, che tutti devono seguire. E qui si torna a 1984 di George Orwell, o in Matrix, o in qualsiasi altro film che potete vedere, c'è uno che comanda, o comunque un ordine di persone che comandano, e tutti quegli altri sono all'oscuro e vengono manipolati dalla mattina alla sera. E quella è la stessa identica cosa che ci accade tutti i giorni. E abbiamo questo desiderio, questo morboso di riconquistare la nostra sicurezza, tranquillità e il comfort, che saltiamo subito all'opportunità ci saltiamo subito dentro all'opportunità di riguadagnare queste cose. E è quello che ci promettono loro, di rimettere ordine, ma con l'arrivo dell'unico ordine mondiale arriva anche l'unico governo mondiale, ovviamente, e l'unica moneta mondiale. Poi ci sarà, c'è l'unico ordine mondiale dei vestiti, l'unico ordine mondiale dei distributori del cibo, un'unica religione, l'unico mondo, tutto praticamente. E questa è proprio la definizione di ordine dal caos. Loro hanno creato talmente tanto caos che possono applicare l'ordine che vogliono loro, possono fare quello che vogliono, perché hanno sconquassato talmente tante cose che possono manipolare tutto quello che vogliono, possono fare tutto quello che vogliono, e non c'è nessuno che li può fermare, non c'è nessuno che gli dà contro. E qui si ritorna al simbolo degli Stati Uniti, dove abbiamo la frase I pluribus unum, che significa tra tutti uno, in poche parole. Abbiamo ancora tempo prima che queste cose, diciamo, accadano, ma siamo già ben inoltrati su questa strada. Una degli obiettivi che vogliono, è una delle fasi che stanno accadendo ora, è aggregare il maggior numero di possibile di persone nelle città, nelle grandi città. E continuando il discorso delle mega città, possiamo trovare film a riguardo come Judge Dredd, e nel film un gran numero di persone viene confinata in queste mega città dove le condizioni sono brutali, e questa è una di quelle cose che è ancora in processo. Siamo ancora in tempo per poter cambiare le cose, ma non certo con me che sto qui a chiacchierare. Bisogna iniziare a fare qualcosa. Almeno questo è quello che penso io. Io sto già facendo qualcosa, ma sono solo. Sono solo. Siamo soli. Siamo veramente pochi. E in pochi iniziano a voler scavare. E tremenda come cosa vedere la gente arresa, come ho detto l'altra volta. È incredibile come sempre più persone si arrendono e accettano la merda che ci danno tutti i giorni. Quindi nuove leggi continueranno a essere passate che ci toglieranno piano piano sempre di più la libertà, la nostra personale libertà, fino a non... E questo ci viene detto dalle canzoni, dai film, e lo possiamo vedere in atto oggi davanti ai nostri occhi, e nessuno se ne rende conto. È assurda come cosa, a volte sembra di vivere in un incubo, davvero in un film di zombie dove uno si sveglia e si ritrova in mezzo a un mondo pieno di zombie dove solo alcuni sono svegli, dove solo alcuni combattono. Quindi nuovi modi per levare di torno gli indesiderati come me, per esempio, o per toglierci delle libertà verranno fuori, verranno messi in atto. Quindi praticamente stanno usando queste mega città, e useranno queste mega città per confinare la gente che non vogliono, in modo che quando, se un giorno vorranno sterminare o togliere di mezzo tutte le persone indesiderate, lo faranno con semplicità, non lo so, armi batteriologiche, bombe, quello che volete. È così che stanno facendo. In questa maniera ci riuniscano, siamo tutti insieme, e con un piccolo sforzo, basta appoggiare un tasto, ecco via tutti gli indesiderati. E quando tutte questi indesiderabili, queste persone che vedono, vengono eliminate, non ci sono più a dare noia a questo unico ordine mondiale, hanno cosa gli rimane? Gli rimane solo persone che non questionano su niente, che non si fanno domande su niente, che obbedienti, che accettano quello che gli viene dato a prescindere da qualsiasi cosa. Stiamo andando su questa strada qui, perché se una persona cresce senza aver mai conosciuto la libertà davvero, non ha niente con cui mettere a paragone quello che gli è stato dato. Quindi non ha desiderio di quello che gli viene dato, è come se fosse un regalo, ma in realtà è prigionia, è sfruttamento, sono menzogne. Ma se ci viene dato solo quello, noi cresciamo con quello lì, lo prendiamo per... è l'unica cosa che abbiamo, non abbiamo altro con cui metterlo a paragone, quindi non ci ribelliamo. Abbiamo una società che non si ribella, abbiamo delle mucche, ecco che ci sa, delle mucche. E riprendendo i film come The Giver, che l'ho nominato tante volte, dove hai da prendere la tua medicina tutte le mattine, che ti leva tutti i desideri, tutti i sogni, ti rende addomesticato. La stessa cosa in Equilibrium, che è un altro film, no? Che spari il siero nel collo per reprimere le emozioni. Lo stesso in Divergent, dove praticamente il tuo destino viene scelto per te in una cerimonia. In The Giver sono in un mondo dove le persone praticamente non gliene frega niente di dove sono, e non sanno niente del mondo dove sono, non gliene frega niente, perché non gli è stato dato niente. Quello è quello che è, e si fidano di quello che gli viene detto. Quindi qual è la differenza tra il nuovo ordine mondiale e l'unico ordine mondiale? Praticamente niente, tranne una cosa: è l'illusione della scelta, che adesso nel bel mezzo di questo nuovo ordine mondiale crediamo di avere una scelta, ma in realtà non l'abbiamo, perché può essere tutto ricollegato a una persona, o comunque a poche persone che posseggono tutto. Quando ci sono 10 corporazioni che hanno il controllo o posseggono tutto quello che potete trovare in commercio, vi sembra di poter avere una scelta? Andate a vedere le società che ha, i marchi che ha la Kraft, i marchi che ha la Coca-Cola, i marchi che ha la Kellogg's, i marchi che ha la Nestlé, la P&G. Andate a vedere. E libertà di scelta? La stessa cosa con le 6 corporazioni che controllano la televisione, i media, News Corp, Disney, Viacom, la Warner Bros, CBS. C'è quel falso senso di scelta. Noi non possiamo scegliere, non abbiamo una scelta. Qualsiasi scelta facciamo è finta. Se scegli destra o sinistra non cambia niente. E la stessa cosa di un cibo è nei politici, no? Non cambia niente, perché sono le solite persone. Quindi viene deciso da queste persone quello che mangi, quello che guardi in televisione, quello che senti alla radio, quello che ti viene detto da politici. È scelta? E invece nell'unico ordine mondiale l'illusione della scelta viene rimossa dall'equazione, e le persone che vivono in quel momento, in cui non se ne renderanno nemmeno conto, le persone che sono in quel momento dove andremo nel futuro, praticamente non se ne renderanno nemmeno conto di non avere una scelta, perché cresceranno in quel mondo lì, ci sceglieranno i vestiti come in The Island, non sapremo cosa mangiamo, cosa mangeremo come in Snowpiercer, o come gli indesiderati dalla regione delle prigioni, che gli danno da mangiare delle barre verdi dove praticamente loro mangiano persone e non lo sanno. Comunque per oggi è tutto, spero di avervi fatto fare delle domande. Grazie a voi, grazie a Radio Big World, e dall'Arcadia è tutto. Ciao, alla prossima.